Wolf Tricks, I viaggi del lupo. È il caso di dire che stasera non è buona la prima. No, cioè... è buona la seconda. E sa anche buona l'ultima. No, è l'ultima puntata, quello sì. Però abbiamo dovuto fare, diciamo, un reboot. Mettiamola così. Diciamo radio occupata. Sì, c'è stato dovendo fare un po' di disinfestazione. Sì. Anzi, ha fatto Fabio. Fabio, oltre perché... multiservice. Multiservice. Infatti, adesso potresti mettere su, diciamo, un service di. Come si chiamano quelli che fanno. Disinfestazione. Polizie. Disinfestazione. Ragni. Sgombero ragno. Sgombero ragno. Beh, stasera diciamo che ha ucciso l'uomo ragno. Mettiamolo. No, vabbè, oddio. E la famiglia. E la famiglia. E la famiglia. Sì, stanotte te li trovi tutti nel sogno. Vabbè, io come dicevi tu, Tony, avevo detto che sarebbe stata una puntata da urlo. E più da paura. E da paura. Tu vuoi dire qualcosa? No, per adesso sono sei ancora traumatizzata? Sono a posto così. Sei a posto così? Lasci? Sto riflettendo. Sei nei ultimi attimi della vita. Ti passano un treno di più. Va bene, allora, cosa dobbiamo fare stasera? Beh, doveva essere una serata gioiosa. No, vabbè, ma adesso lo sarà, dai. Tanto ancora abbiamo un'ora e passa. Voglio dire, stasera non è che... abbiamo anche DJ improvvisati. Ok. Che... E poi abbiamo una selezione invece di musica estiva che abbiamo fatto con la Cree. Che bello. Sei partivi dalla canzone famosa che volevamo mettere. Era bellissima e la metterò. No, è una la metterò nella prossima edizione. Stagione di Wolf Trips. Ma e perché qual è che era? Total perché... Eclipse of the Heart. Ah, no, io penso l'altra ancora. Quella che ama tantissimo il tuo ma No, Total Eclipse of the Heart è bella. È bellissima. Però magari c'è anche la versione anche Caruso elettronica, è molto magari bello. Esiste. Sì, c'è la versione dance, techno dance. Sì, tu quella tu parli di Caruso. Caruso, molto Caruso, bella Caruso. Anche lei è una bene, canzone che... andiamo a iniziare. Iniziamo. Andiamo ad iniziare. Non era un discorso che mi piaceva, quindi l'ho voluto vabbè, troncare sul nascere. Ma non stavo facendo con te. Lo so, però ci sono dentro anch'io, sai, sono qua. Ma io non mi sento. Non ti senti? No, io ti sento forte e chiaro. Adesso vi andiamo a vedere cosa succede. Intanto allora, Fabio ha preparato la console e niente, poi dopo vedremo un po' come si svolgerà il tutto. Andiamo a ascoltare il primo brano, caro Tony. Il brano è dei Daft Punk, Fragment of the Time, però non mi sembra che non sia, mi sembra che non fosse l'originale completamente, ed è cantato con Todd Edwards, che senso, cioè non è fatta loro, loro scoppiazzano anche loro, No, la canzone è l'originale, sì. Però il brano non è proprio, mi sembra che non sia quello del ufficiale dei Daft Punk, ma è una versione rivisitata. Benissimo. Moments. Comunque dicevo, vedi, il brano è Daft Punk, soprattutto alla fine si sentiva. Album? Non lo so, non ne ho la più pallida idea, devo dirti la verità. Hai cercato? Mi sorprende, no. Poi non lo so. Potrei dire proprio che da che. No, è uno degli ultimi. È uno degli ultimi. Sicuramente l'ultimo album che avevano fatto. Sì, la musica che si. Quella con Happy, per dirti, quell'album lì. Adesso Happy mi ricordo Birthday. Come si chiama. No, Happy, quella. Happy. Il cantante di Happy. Il cantante di Happy, come si chiamava il pezzo? William. Ma come si chiamava il pezzo di Daft Punk? Lucky, bravo. E è il cantato un po' diverso dal solito. Vabbè, stasera quindi diciamo che era una serata pazza, quindi sì, partiamo sì, subito sì, con sì. Un po' di follia. Adesso tu ti senti? Sì, sì. Terra chiama Cristina, Cristina rispondi. Sono qua. Ok, ok. In qualche modo sono qua. E quindi adesso avvia la crack, metti il Juarez che avviamo Virtual Demo. No, scherzo. Come si chiamava lui? No, Virtual Demon. No. Mica è morto. Al secolo. Fabio, Vitello. Ma cos'è che ti sei messo nelle... Le cuffie. È un cuffie. DJ, Ma te t'ha svarionato oggi la giornata? No, ma io sono svarionato. Sei svarionato. Sono delle cuffie, vedi, guarda. Cuffie. Ma sono strane. C'è proprio la sagoma di Radio DJ degli anni 80. Lui. È vero. Ma se me l'hanno fatta con la sua faccia, Radio DJ? Ok, tu sei pronto? Ma che musica metterai, Virtual Demo? Demon? Techno Trance. Per la gioia di Tony. Porca miseria. Fa sempre contento me. Vabbè. Porca miseria. Va bene, dai. Tutti ti lasciamo. Che ti fanno contento, Tony. Non lo so, mi vogliono tutti bene. Ti lasciamo allora un po' di spazio, va. Vediamo un po' che cosa ci combini. Aspetta un secondo solo e ci siamo. Tutto improvvisato. Ricordiamo che lui domani partirà con la nave. Ho visto la canzone che gli hai dedicato. È proprio. Potremmo anche metterla. No, diciamo che lui farà. Con te partirò, no? Fa il DJ su una nave. Sì. Possiamo dirlo, quindi... Fabio, la compagnia Nave Veloci. Sì. Tratta Genova Palermo. Se per caso avete la fortuna. Se vedete la Suprema, non salite. Già buttatevi via in mare. Ecco. Quindi diciamo adesso si sfoga. Salvatevi da soli. Si sfoga musicalmente per poi dopo andare nella tomba del DJ. Domani sarà 4 ore al porto di Genova. Non scambiatelo per un extracomunitario. Non c'è niente bello. Dai, vai. DJ, partiamo. Fabio DJ, ho sbagliato. Fabietto DJ H Virtual Demon. Melody. listening to Radio Lupo Solitario W.it Virtual Demon DJ with Guriella. Guriella Original Mix. Sei troppo international. to girl, to those who are free, the mind shall be key. Forgotten as the past, 'cause history will last. God is a girl, wherever you are. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, whatever you say. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, however you live. Do you believe it? Can you receive it? God is a girl, she's only a girl. Do you believe it? Can you receive it? Bentornati. Rieccoci. Rieccoci. Questa era God is a Girl. Groove cover. Groove cover. Groove coverage. Groove coverage. 2000 o più di 10. Aspetta che guardo il tag. No, non c'è scritto. Ma Match. Match. Intanto non era nel video. Non era nella video edit. No, non è vero. No, sono tutti pezzi. Mi diceva che erano rippati da vinile. Vinile, vinile edit. Sì. Va bene, dai, intanto che DJ Virtual Demon, detto giusto. Detto Fabri. Detto Fabio. Fabio DJ. Fabio. Oppure l'avevamo anche soprannominato DJ Fabio Morselli anche. Tra poco ci sarà Antonino anche. Chi è Antonino? Young Tonino. No, Tonino stasera non suona. Stasera non ci sono. Non è che non ci sono. Cioè, ci sono, ma non... Stasera siamo solo in veste di speaker io e lui. Sì, stasera ah, DJ... siete in borghese, i DJ seri sono... No, serio è quello che no, infatti, prima. No, ha fatto un bel mixato misto, trance, techno... L'ultimo che sta andando sotto è Zaira Spiritual Age. Ma non lo sentiamo più perché ho dovuto fare un change. E no, adesso praticamente avremo un cambio... Una nuova entrata! Una nuova entrata, e direi che andiamo a ascoltarci un brano. Una new entry! Sì, non sveliamo nulla, andiamo a ascoltarci un brano. Così intanto io si non prepara vedo l'ora, sai. E poi dopo vedremo. Lei dice di no. Ah, ho svelato che è una lei. È una lei. Ma andiamo ad ascoltarci il prossimo brano che è Mikl. Ah, pensavo Mickey quello di no, quello no, della radio. No, mi sono confuso con Ricky di... No. Il pezzo ci mancano i The Colors. È bellissimo. Guarda, questo pezzo qua è bellissimo secondo me. È un brano elettropop, dai, finiamolo così. Ormai mi sono lanciato sull'elettropop. Nella linea della, del ma programma. Nel finale c'ha un synth bellissimo. Andiamo a ascoltarcelo. Better With You. Better with you. This hell feels better with you. You're in my veins. You're in my blood. Stop the feeling of giving up. Oh, I know we don't have much. This hell feels better with you. Better with you. Been waiting here a long time. Better with you, better with you. This hell feels better with you, better with you, better with you, better with you. This hell feels better with you. You're in my veins, you're in my blood. Stop the feeling. I know we don't know much. This hell feels better with you. Better with you. Va bene, dai. Era bello sto pezzo, mi piaceva. Scusa, questo synth cosa sintetizza? Sintetizza la sintesi musicale del pezzo. A me sembra un paio di scuregge così buttate lì. Ma no, è bellissimo questo pezzo. Sintetizza il suono. C'è un po' di meteorismo in No, è bellissimo. A proposito, avete sentito del meteorite che l'hanno scoperto dopo che è caduto? Che è caduto. Cioè, si è disintegrato, già, però dove? Mi sembra nel Sudafrica. Quindi adesso non ci sono, ci siamo evitati tutte le solite catene del tipo finirà il mondo il 15/27/2019. Senti questa frase, secondo me noi siamo già finiti, siamo solo indifferita. Porca miseria. Invece io invece dici quello, io invece dico sempre che siamo talmente tanto avanti che se ci guardiamo indietro vediamo il futuro, tu invece dici che siamo già finiti, cioè proprio è una cosa in contrasto. Cioè uno vabbè, intanto qua dietro qua c'è un po' di movimento strano. Sì. Ti lascio a te l'onere e l'onore di lanciare il tutto. Una famiglia di DJ cresce più o meno. Dai, smettetela. Avete sentito anche la voce di qualcuno che fra un po' metterà un po' di musica che ha scelto così, che gli sono piaciute. Di Deborah. Va bene. No, fai dai. Allora, quando vuoi. Non so neanche come è un nome d'arte, Deborah, come ti Ma noi gliel'avevamo anche trovato, ma non gli piace? DJ no, Deb. SJ, che ne so. No, DJ Deb non è brutto. DJ Deb ci sta. Vabbè, dai, andiamo ad ascoltare, dai, andiamo ad ascoltare cosa hai selezionato, dai. Vai. Quando vuoi. Yeah. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Mississippi. If we show up, we gon' show out smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too What? devo complimentarmi con Deborah, eh. Veramente brava. Brava Deborah. Brava, brava Deborah. DJ Deb. Sei stata veramente brava. Grazie. Era un po' agitata, dai, era un si po' agitata. Fa morire dal ridere. Che pezzi hai messo? Vabbè. Che non mi ricordo più. Allora, beh, Aurora Sogna Subsonica. Poi ok, cosa che allora la prima traccia era Celebration di Kool & The Gang. Giusto. Seconda traccia Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough, titolo lunghissimo che miracolo l'ho ricordato. Poi c'era Uptown Funk di Bruno Mars. E poi vabbè, ho Fatboy Slim con Weapon of Choice. E poi Aurora Sogna. Cos'è successo? Fabio. Fabio, porca miseria. Allora, per la prossima stagione devi imparare due robe. Chiude le porte. Quando parliamo non devi fare casino, che poi si sente. Non riesco a toglierlo dal podcast. Va bene, va bene. Ma adesso veramente, non perché diciamo la mia compagna, ragazza, chiamatela come volete, però ha fatto una... È stato più bravo di te. Sì, è stato più bravo di te. No, ma quello è logico. L'allievo che supera il maestro. No, no, mi supera. No, no, il maestro no, perché lui non mi ha insegnato niente. È vero, mi ha insegnato Fabio. Niente, zero. Hai preso lezioni private da Fabio. No, ma c'ha una bella voce radiofonica. Sì. Non vuole mai parlare. Hai visto? No, vedi che hai parlato bene, te lo dico io che ti faccio sempre la testa. Poi dopo te lo riascolti il podcast così. Solitamente quando uno riascolta la propria voce fa... Sì, come me, poi in questi giorni che pure basta, cioè ciao. Comunque stiamo conducendo al buio. Sì. Tanto la webcam non va. Lume di candela. Sì, è vero. No, lume di cellulare. A lume di cellulare. Va bene, allora visto che siamo al buio e siamo notte, io direi che prima che facciamo l'ultima parte del programma con un po' di selezione di musica estiva. By Chris. Giusto. Direi che andiamo a ascoltarci Chris il prossimo. No, vabbè, sei bionda uguale, dai. Andiamo a ascoltarci il brano di Clapton con Stay the Night. Visto? Te l'ho fatta proprio apposta. Ci stava proprio per la serata. The walls are closing in around me, but I can't get enough. Washed out, love struck. I'm fading, yeah. I'm fading. I'm va bene, dai, allora siamo arrivati all'ultima parte della puntata di stasera. Sono già le 9:30 passate, dai, ce l'abbiamo fatta in qualche modo. Sì, sì, dai. Salutiamo. Ah, adesso mi sento la voce. Chi voleva essere qua, non è potuto venire. Non ho capito. Salutiamo chi voleva venire qua, però non è potuto venire. No, dobbiamo fare poi dopo, verso la fine, un po' di saluti ai nostri vari ospiti di quest'anno. Visto che ne abbiamo avuti veramente molti, quindi sì. Me li devo ricordare, devo dirti la verità. Vero. Perché l'idea iniziale era quella di invitarli qua stasera, però secondo me avremmo fatto una sauna, troppo... niente, dai. Diciamo che li volevamo complicato. Poi da tanti amici avresti trovato tanti nemici. Vero. Sì, no, più che altro la sauna me la volevo risparmiare. No. Tutto sommato. Beh, dai, già stasera abbiamo bene, avuto anche troppi ospiti. Infatti. Allora, quindi tu volevi fare un'ultima parte di selezione musicale molto veloce, però. Non mixata, però. No. Perché non ho avuto il tempo. Sì, anche perché io non c'ero a casa. Quindi non c'eri a casa, poi io non ho avuto proprio tempo. Capirai che se manca lui, cosa... Manca tutto, manca. Sicuro, Infatti. Ma vedi, oggi avevi anche il Fabio DJ in service a casa. Lui... O a caso. Allora, lui oggi ha fatto una lezione molto veloce alla Deborah. L'unica cosa che vi devo dire... Dica. Con massaggi? Ah, questo non lo so. Monica è perché Monica? Chi è Monica adesso? Volevo dire la ragazza di Milano. La ragazza di Fabio. Sabine, perché Monica? Ai, questo è un lapsus freudiano, sappilo. No, perché non Sallo, ce ne sono se Monica. Non lo sai, Sallo. Sallo. No, ti volevo dire l'unica cosa che sto guardando adesso, i tag ho messo un po' a posto perché il pezzo di Fatboy Slim c'è artista Fat e Song Boy. Ma non si ricorda dove l'ha preso. Beh, no, immagino. Da Lercio? No. Sì, da Lercio. Va bene. Allora, adesso iniziamo ad ascoltare la prima, diciamo, terzina di brani. Presi, allora, il primo di quando è del... Hai fatto il Fabio della situazione. Vai. Ascoltami. Dai. Allora, il primo è di Gino Paoli. Quale? Tiro fuori una chicchetta. Che brano è, secondo te, dedicato all'estate? Visto che ormai ci abbiniamo all'estate. Dai! Ho paura. Sapore no. di sale. Bravo! E allora ce l'andiamo ad ascoltare. Ma del 63. No, vabbè, fai tutti e tre, tanto poi dopo li metteremo in sequenza a mix. Edoardo Vianello. E secondo. Bravo. E Giuni Russo. Alghero. No. Aspetta, Giuni Russo ha fatto... Un'estate al mare. Bravissimo. Al mare. Anno, più o meno dei brani. 83, mi sembra. Sempre si è lì sui 63. 63, no, attenzione. No. Giuni Russo no. No, Giuni Russo no, però... Giuni Russo no, però abbronzatissima. Sì, anche 62, lei del 63. 63. Sì. Vabbè, dai, iniziamo ad ascoltare questa prima terzina. Ok. Vai. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare, com'è dolce sentirti respirare con me. Sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mar non potrò dimenticare. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsa. Sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mar e non potrò dimenticare. Strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un Harmonize con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le Festival Bar 1983. 83 quindi questa? Credo di sì, eh? Stavi dicendo che sono... No, guarda, vediamo. Poi guardiamo. Subito. Però vabbè, primi... Ma stavi dicendo quindi che è il... I Musicarelli. I Musicarelli, film che negli anni 60 davano il nome al film prendendo dalle canzoni che i cantanti promuovevano. 81! Vabbè, 81, 83, dai. Sì, beh, data di uscita 81. Comunque fanno sempre parte di quei filmoni che guarda. Che film era? No, questa cosa questa di che film no. è? Non lo so di che film no, è sinceramente. No, non credo neanche che ci sia. Magari Abbronzatissimi, sì, quei film lì dei primi sì, anni 80. Sì, sì, sì, beh, sicuramente, sicuramente. Quindi diciamo che adesso ci spostiamo un pochettino più in là, giusto? Andiamo sì. ad ascoltare un'altra terzina di musica estiva. Così almeno ci sentiamo già un po' al mare, magari. Magari. Stai già guardando i titoli, Tony? No, io ho spento lo schermo. Ah, sai che non l'ho ancora messa quella che dedicherò a te. Ah. Ma arriverà, dai. Arriverà. Non l'ho ancora messa, però c'è. Adesso abbiamo i Righeira. E già questa potevi anche dedicarmi, perché appunto... Sono molto legato ai Righeira. Anche se sì. ero piccolino, però quelle canzoni che ti entrano subito. Questa è dell'83. E questa è sicuramente quella che dicevo io. Poi abbiamo i ladri di biciclette. Mamma mia, mamma mia. Cosa ti sto tirando fuori? Ma qua mi si apre il cuore. Cosa ti sto tirando fuori? Sì. Veramente l'infanzia quella. No, beh, no. Avevo 16 anni. Quest'estate. Sei vecchio, io ero appena nato. Estate 1990. Ladri di biciclette con. E poi il gruppo italiano nell'83. Cosa ha fatto? Aspetta, adesso. No, sono talmente emozionato che non riesco. Allora, ladri di biciclette hanno fatto. Sotto questo suono. Bravo. E con il Baccini. Gruppo italiano? Na, na, na, na, Tropicana. Na, na, na. Bravo. Dai, andiamo ad ascoltarli. Bravo. Allora. Andiamo. Vai, vai. Dolce, dolce, tutto andava giù. Mentre Quindi ti piacciono? Bellissime, grande Chris. Ogni tanto. Settimana scorsa ti avevo cazziato solo per un paio di canzoni, ma ti sei rifatta alla grande. Hai visto? Stupendo, bravissima. Veramente. È stato tosta. Mi sembra di avere un LP del Festival Bar. È vero. Una volta però mi sembra che il Festival Bar è una sola compilation. Poi negli anni 90 è diventata doppio, vabbè. Però adesso è finito. E adesso dicevano che tornava quest'anno. Beh, dai, ne ho messa dopo, ce n'è una anche dei giorni nostri, diciamo. Sì. Però sempre. Ma iniziamo a introdurre la prossima terzina, dai. Allora, questa sempre è bellissima, estate, a me piace un sacco, tema, sempre estate. Carlotta, ti dice qualcosa? Sì, Carlotta è una meteora. Sì, è una meteora. Sì, è una di quelle canzoni che ha fatto... Sì, sì, bellissima, sì. È vero, quelle canzoni che veramente, soprattutto hanno fatto d'estate. La storia... Salutiamo l'Italo che è arrivato. Ciao, Italo. Ciao, Italo. È arrivato col treno d'estate. Qua stiamo parlando di estate, Italo. Ci stiamo già mettendo in spiaggia. Già. Beati voi. Sì, solo nei sogni, però, dai. Va bene. Poi, seconda canzone. Questa è dei giorni nostri. È un po' tanto questa. È di Gabbani. Ah vabbè, sì, l'ha scritto l'amico, un amico di Radio Lupo, possiamo dire. Sì. Quale sarà dell'estate? Estate. Tra le granite e le granate. È giusto. Giusto. Però mi sa che il titolo è estate. Mi sa che non è quello il titolo. Sì. Estate. Sì, no, estate. No, estate. No, secondo il titolo è quello lì, Sì, è vero, tra granite, tra le granite e le granate. Granate. Sì, è vero, il titolo originale è quello. Sì, si dice estate perché Dai, questa. E poi una dedica quando io... No, non è ancora la tua, però mi ricordo veramente queste scene. Anni cosa 90, va? Anni 90. Anni 90, diciamo, ero un po' più giovane quando c'era l'Italia e i mondiali e quindi io guardavo i mondiali. E questa canzone... Ricordo i mondiali. Mi ricorda i mondiali di Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Sì. Un'estate italiana. Un'estate italiana. Ce li ascoltiamo? Va bene, vai! Partiamo? Vai! Via! Vai, DJ! Dice il venditore di felicità, Fuga dall'inferno, finalmente viaggio. La tua vacanza in un pacchetto omaggio. Foto di gruppo sotto il monumento. Turisti al campo di concentramento. Sulle spiagge arroventate. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Macellerie sudate, in coda nei musei. Hotel di lusso nei villaggi dei pigmei. Mente sana e corpo fatiscente. Antologia della vacanza intelligente. La tua vita al largo, da una vita intera. Fischia il vento ed urla la bufera. Tra le granite e le granate. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Estate. Di dove siete? Lì dove siete, com'è che state, ci state bene e state. Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo cor, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere, un'estate, un'avventura. Mi sembra di essere al karaoke quello di Fiorello. L'ho fatto un po', l'ho fatto un po' alla Cugini di Campagna. No, no, come scanzonissimo. All'anima mia. All'anima mia di mortacci tua. No, ragazzi, come quel programma che sta andando adesso di Gigi Rossa. Sì, ho visto, qualsiasi cosa canti, qualsiasi cosa devi stonarla. Ah, ok. Calmati. Mamma, ho capito. Fabio, lo sa, è l'agitazione della partenza. Sì, no, non ho capito quello fa che niente, detto, tu però passa va avanti, bene. Ho detto che okay. È canzonissima. Sì, sì, ho capito. Dopo me l'hanno spiegato, ho capito. Sono usciti i sottotitoli. La macchinetta. Vabbè, ragazzi, mi dispiace. Dai, è ora, ragazzi. Sono arrivati già i successori. I successori del trono qua. Quindi, sì, non so se vedranno la luce. I signori della notte. I signori dell'oscurità. No, vabbè, noi facciamo i saluti. In realtà... Ringraziamenti. Ringraziamenti, dobbiamo ringraziare un po' tutti quelli che ci ascoltano tutti i giorni comunque sui podcast. E poi dobbiamo ringraziare anche tutte le varie persone che ci hanno seguito. Certo. Assiduamente, tipo la Sabrina. Che sono venuti qua. Anche il nostro amico che magari voi non conoscete. No? Chi sì, è? Si chiama Mauro. Mauro, giusto. Ah, lo salutiamo. Sì, che... Quello ciao, che manda Mauro ogni tanto i messaggi. Possibile, sì. Però mi ha fatto anche una bella lirica sul podcast che ho fatto io. Bene, sì, bene, lo salutiamo. Bene. Poi sì, io saluterei anche la Sabri. No, la Sabri. La De, Chicco e Ale. Sì, infatti. Che sono i nostri due piccolini. Poi piccoli ascoltatori. Volevo salutare. Salutiamo Biomaterra. Salutiamo sì. Andrea Power DJ. Che bravissima, è quello che stavo pensando. Ciao Andrea, anche se non ti conosco. E lo conoscerai, secondo me. Nel momento di bisogno. Poi è venuto qui anche il fotografo, quel bellissimo Eric, ragazzo. Ah, ciao Eric. Sì, è venuto qui anche lui. È venuto la Erika. Le mondane. Sono venuti i Murmuri, carissimi amici, che sono venuti anche a pulirci il bosco giovedì. Davvero? A Domodossola, sì. Mi avevano invitato, però io non potevo andare. Sicuramente ne sto dimenticando qualcuno. Sicuramente la Erika, l'altra sì. Erika, bravissima. Che ha fatto con noi la puntata. Vabbè, salutiamo tutti. Un collega tutti. Di viaggio di treno. Ah sì, giusto. Felice. Fabio che ci ha abbandonato, caspita. Mannaggia lui. Fabio, devi tornare nella prossima stagione di Wolf Trips, tornerai. In realtà devo dirvi la verità, noi chiudiamo qua il programma radiofonicamente parlando, ma in realtà la playlist di Wolf Trips continuerà. Diciamo che non ci siamo noi speaker, non ci siamo noi a tenervi compagnia. Andiamo in vacanza. Solo musica. Andiamo in vacanza. Magari una vita in vacanza. No, ma neanche tanto, no, perché dopo uno si stanca. Allora, parla per te. Sono le 10, io direi sono che facciamo 10, gli ultimi faccio saluti. La mia dedicatoni. No, prima facciamo i nostri saluti, poi facciamo la dedicatoni e poi lasciamo lo spazio al programma successivo. Sì. Allora, io direi che saluto la Cri, Debora, Fabio e Tony. E mi saluto Antonino, io da Antonino e noi salutiamo te. Grande Domingo. Quindi vi saluto. Piccolo grande Domingo. E ci sentiamo forse l'anno prossimo. Chi lo potrà mai dire? Tanto i canali, come si dice, i canali sociali Hanno ripreso vita. Non so che cazzo sto dicendo. Ah, ringraziamo Fabio. Ciao Fabio. Sì, ciao. Fabio anche come disinfestatore si è rivelato molto seriale. Utile. Mi raccomando. Stasera farò gli incubi sui ragni che ho appena... Non è stato torturato nessun animale per la realizzazione di questo programma. Non so come mi è uscita questa cosa. Ok, adesso puoi fare la tua dedica e chiudiamo. Facciamo la mia dedica. Tony, tutto per te. Viene direttamente dal 1984. E che cazzo! Zanzara. Anche di qua mi sto. Viene direttamente dal lontano 1984. Quanti anni avevi? 10. Ti ricordi Sandy Martin? Wow! Tutta per te, People from Ibiza! Grazie! Ciao ragazzi! Ciao!